Pensare non è banale, pensare non è sporcare, imbrattare i muri della mia follia. Pensare non è banale, pensare non è sporcare, imbrattare i muri della mia follia. Ricchi muoiono in un concetto sanguinante della mia fantasia. Poveri nascono, poveri crescono in un concerto opaco della malinconia. Imbrattare i muri della mia follia. Pensare non è amare, pensare non è violentare, imbrattare i muri della mia follia. Ricchi muoiono, ricchi muoiono.